she wants the world, she wants it now. And since she's left me down, and nobody put her down, she wants the world, she wants it now. Should a woman listen? Should a woman say hello, hello? I gotta go away. Hello, hello, hello, hello. You better listen. Hello, hello. I gotta go away. Hello, hello, hello, hello. You better listen now. And she said yes, and he says go. Oh, ask up the body, no. He wants a word, he wants it now. And since he left his sound, he never wears a frown. He wants a word, he wants it now. Should a woman listen? Should a woman miss it? Hello, hello, I gotta go away. Hello, hello, hello, hello, you better listen. Hello, hello, I gotta go away. Hello, hello, hello, hello, you better listen now. Attenzione, Iron Maiden. Ah, fai spavento. Questa è andata ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Complimenti ragazzi. Che gioia, che gioia. Persone afro però. No, è andata da Dio, Edo, sì. Veramente è andata da Dio. Mamma mia. Qua la risentiamo, com'è venuta regista? Ne facciamo un'altra? Ne facciamo un'altra, quella lì. 1, 2, 3, via la base, Peter, grazie, grazie, scusa. 1, 2, 3, 4. Questo è un classico, eh. Ancora un giro. Scrivete via SMS AO, let's go. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. The farmer in the straight line. The bullet I win. On the kitchen lose a landmine. The police creep up. The pilot in the backseat. The generator steaming. The shade in the backbeat. The police creep up. Alright. Hey, oh, let's go. I shoot it in the back now. I wipe that one. I don't know. They all rev up and ready to go. The foreman in the straight line. The girl threw a dive whip. The kids are losing their mind. Oh, please creep up. The pilot in the backseat. The generous teammate. We're sitting in the backbeat. Oh, please creep up. Hey, ho, let's go. We're shooting in the back now. What they want, I don't know. They all rev up and ready to go. And before me in the straight line. I'm a goofy fruit, I will. I'm gonna kiss a little bit of them. Blitz Grippo. The Billy in the backseat. The generous steaming. The sand in the back with the Blitz Grippo. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Saluto a Matteo da Ravenna e Antlon che hanno scritto Ehi oh, let's go. Ma siete grandi, siete grandi, siete grandi. Sì. Fantastico. Allora, tra l'altro l'hanno scritto a tempo. A tempo, certo, molto più a tempo di te, Mox. Un saluto anche a Mick. Edo, let's go. Oh, questo è ancora più bello. D'altra parte è la Edo Night e mi sembra giusto che ci sia questa celebrazione edomaniaca. Esatto. Bene, grazie. No, tra l'altro è un pezzo nuovo, se vuoi. Come fa, come fa? Allora, fai il giro. Sì, ok, ok, io ringrazio e abbraccio i colleghi e fratelli Matthews e Mox, un applauso per loro. Autofacciamocelo poi. Un applauso circolare. Esatto, un applauso circolare. Ci autoportiamo in trionfo. Esatto, esatto. Vabbè, giusto. Grazie anche a Cisco, grazie al Matthews e al Mox. La Nottedo continua. Vai Peter, metti un disco. Grazie anche a te Peter. Yeah. I'm slipping my day away. Grazie Aldo. Allora, siete all'ascolto di Rock FM all'interno della Nottedo. Ci siamo appena, avete appena sentito un assaggino di quello che sarà un'intera notte dedicata al rock and roll. Allora, ne volevo approfittare mentre i musicisti si stanno preparando dall'altra parte del vetro nel nostro acquario con i loro strumenti, e si sta preparando il maniscalco maldestro, e sarà naturalmente una gioia poter sentire le canzoni che per esempio oggi non sono riusciti a sentire, più altre cose. Poi si gemma tutti assieme, abbiamo Quaglia Camporas. Ragazzi, ma Camporas, allora teniamo sto nome o cosa facciamo? Veniteci al microfono, eh. Allora vi presento Numa e Aldo. Buonasera. Cosa facciamo? Abbiamo indetto un vero e proprio referendum su Rock Family e la gente ha votato Crazy Cooter, e a questo punto dobbiamo tenerci Crazy Cooter, cosa dire? Ok, che siamo tamarri, ma non così. Dici? Sì, beh, vediamo un attimo. Magari ampliamo, vediamo qualche altra opzione. Perché esatto. Crazy Cooter è un po'. Esatto, a noi Rasmeyer ci piace ancora molto. Moltissimo. A me Aldo ci piace Rasmeyer. Soprattutto le donne di Rasmeyer. Esatto. Anche a me piace. Bene, allora staremo a vedere. Intanto vi ricordo il sito, naturalmente, rockfamily.it. Dove insomma si sta radunando tutta la famiglia di Rock FM, composta da ascoltatori, composta da DJ, insomma tutta la famiglia di quella radio che fino al 31 di maggio chiameremo con il nome di Rock FM. Allora, rispondo un po' di SMS arrivati, li leggo così perché non li ho preparati ovviamente. Dunque, cominciamo bene. Allora, ehi bastardo del rock, finché non mi si chiudono gli occhi sono con te, e poi con iPod, con Rock FM anche nel sonno. Buona Nottedo, keep on rocking in the free radio. Grazie tutto, grazie mille. Poi un saluto ad Antlon, mamma mia, che dice: cazzo, sei partita alla grande, lo sai che devi suonare anche Poppe. Non la facciamo più Poppe, Antlon, porca miseria, magari vediamo se ce la inventiamo dopo. Un saluto al Monsignor Fefo, grande, dice: ci sono anch'io, Vaso? Non l'ho capita, non importa. Poi un saluto a Sandra da Liggi. Liggi? Cioè, Liggi è da dove viene il nostro chitarrista e dove abbiamo la sala prove. Mia madre. Tua madre? Oh, porca miseria. Mamma mia, ciao Sandra, un abbraccio, ciao, grazie, Sandra. Che saluta le Acampora sei maniscalchi, li giriamo poi i saluti anche a loro che sono di là. Evviva le lasagne della Sandra. Poi vai la Nottedo via web in diretta, non so fino a che ora reggo, ma finché la palpebra non precipita le ultime fiammate di Rock FM non me le perdo. Keep on rocking, Doc. Caro Doc, guarda, stai sveglio perché ti telefono al volo e magari facciamo un'intervistina al volo. Doc di rockcastitalia.it, un sito di podcast dove insomma mi ha intervistato l'altra volta, magari facciamo quattro chiacchiere più tardi, anche lui impegnato nella battaglia del rock contro il pop. Poi la grandissima Ale Fabrutto passerà la notte con noi, fedele a Rock All Edo Night, grazie mille. Un saluto a tutti i manti di Rock FM, questa l'hanno capita soltanto i maniscalchi. Poi un saluto al grandissimo Colin invece, che dice: bella Edo, ti ascolto in streaming, siete giganti, grazie davvero. Poi sì, allora naturalmente Fabrizio dice: sto chiedendo a chi sta registrando se è possibile avere una copia di queste cose. Ci sentiamo su Rock Family. Sì, sentitevi su Rock Family, io non posso parlare di registrazione, fratelli, per cortesia. Poi allora un saluto, e con questa cover ti sei guadagnato inviti a cena da qui al 2385. Bravo, sento che c'è lo spirito giusto. Grazie G. Poi Edo, stanotte il mio sogno lo costruisci tu con una buona dose massiccia di buon rock and roll. Perché no? Perché non aprite una radio pirata, caro Tex da Prato? Perché ormai se la sono data, e aprire una radio pirata ti beccano subito. E quindi non è così facile come negli anni 70. Poi un saluto a Riccardo che dice: ciao, di a Mox che ad agosto l'aspetto a Lucca, sono quel ragazzo di Lucca che vi ha conosciuto a Gello ed ha registrato tutte le ultime settimane. Grazie Riccardo, certo, senz'altro. Poi un saluto a Kate che dice: ma ci sono Borchi e Numa in radio, evviva, salutami Rockpi e Peter. Certo che ti sei tirato indietro, a quanto pare hai chiamato rinforzi. Confermo, no, perché... che passo a Lucca. Ok, perfetto, grazie Mox. Poi allora, ubriachezza molesta come il Silvestro maniscalco maldestro, Iron insieme a Led, bella joint, ho finito la boccia e drag non fa per me, peccato, mi faccio di musica finché ce n'è, DJ dalle palle sfaccettate, e domani mattina boh, no fucca, vivo il presente con voi, grazie. Poi poi un po' di AO Let's Go e poi altri messaggi che sono costretto a farvi a leggere più tardi, perché ora sentiamo un disco prima di sentire i Maniscalchi, che sono pronti dal vivo, un altro disco tratto dalla mia personalissima collezione, il primissimo EP degli Halloween. Vi faccio ascoltare Victim of Fate, 1985. Victim of Fate. Questi erano gli Halloween dal primissimo EP del 1985, ma do il benvenuto ancora una volta negli studi al Maniscalco Maldestro! Buonasera a tutti! Maniscalco Maldestro! E ora, ora sì che scatta l'ignoranza, o no? Sì. Edo! Sì, dimmi! Vogliamo farti subito un piccolo regalo. Sì. Te la vogliamo donare dal vivo, una cosa che grazie a te e tanti ascoltatori hanno sempre sentito. Vai! Registrata. Ragazzi, ci siete? Aspetta. Grandissimi. Questa era quella che una volta era uno dei jingle che insomma veniva inframmezzava, ora c'è quello nuovo. Sono un po' devastato. Allora Maniscalco Maldestro di nuovo ospiti di Rock FM dopo il jingle di apertura. Fratelli, sorelle, vogliamo fare del rock and roll? Vai. Let's go. Ok, aspetta, ragazzi, rock and roll. So. Sarà certo, Anna